La situazione in Francia sta rapidamente peggiorando e se non si prendono provvedimenti c'è il rischio che questa velocità di peggioramento si torni a una situazione simile a quella che abbiamo vissuto questa primavera a febbraio-marzo. Qualche dato per capire quello che avviene qui e fare un raffronto con quello che avviene in Italia. Se in Italia ogni giorno vengono trovati più o meno un migliaio di nuovi positivi, qui siamo a 10 volte tanto, siamo intorno ai 10-13 mila al giorno a seconda delle giornate. E un dato che quindi è estremamente superiore e che sta facendo aumentare anche i casi in cui è necessario, sono necessarie delle cure, quindi non casi asintomatici, ma casi ben sintomatici in cui è necessario mandare in ospedale il paziente e mandarlo in rianimazione. Soprattutto quest'ultimo dato, cioè la saturazione delle rianimazioni, è quello che probabilmente ha spinto il governo francese a prendere misure ulteriormente restrittive. Questa volta non a livello nazionale, solo in quelle province, in quei dipartimenti che mostrano segni allarmanti. Uno su tutti, oltre a quello all'aumento dei positivi, è appunto la saturazione dei letti in ospedale. Per cui ci sono province francesi in cui tutto continua a essere, tutti continuano a vivere come al solito, e province dove invece, come per esempio a Marsiglia, sono stati chiusi bar e ristoranti con grandi proteste. O ancora, per fare un esempio, la provincia dove mi trovo attualmente, Parigi e una parte della regione di Parigi, in cui da lunedì i ristoranti saranno chiusi alle 20. Le palestre e tutte le sale sportive, diciamo, saranno chiuse totalmente e varie altre misure restrittive, oltre a incitare ancora il telelavoro, sebbene le aziende siano molto restie perché per varie ragioni vedono cali di produttività tra i lavoratori non semplici, diciamo, non dai quadri in giù. Quello che avviene, per esempio, è che se guardiamo la regione di Parigi, siamo già a 300 letti di terapia intensiva occupati solamente da malati da Covid-19. 19 su 1150. Poi ovviamente ci sono i letti destinati ai pazienti normali, quindi c'è un tasso di saturazione importante. Addirittura, se guardiamo un'altra zona molto colpita come quella di Marsiglia, già a inizio settembre venivano lanciati allarmi dalla regione per la mancanza di letti e a quello che si legge già 2 o 3 giorni fa, i letti in terapia intensiva disponibili erano solamente 10. Questo ha portato probabilmente il governo francese a adottare misure restrittive per quanto riguarda la vita. Io non penso che si andrà in alcun modo verso una nuova quarantena o come la chiamate voi in Italia lockdown generale. Semplicemente si chiuderanno, si cercheranno di chiudere quelle province che mostrano situazioni peggiori. Sono due dati diversi, diciamo, rispetto all'Italia che penso siano significativi per gli ascoltatori italiani. Una prima è la spiegazione di questo fenomeno, cioè come mai che in Francia rispetto all'Italia ci sono tanti casi in più. La ragione in realtà è che a mio parere i francesi sono più, e l'ho visto in realtà tornando in Italia, quindi facendo il raffronto tra i due paesi, i francesi sono molto più indisciplinati, molto meno mascherine, quasi nessuno la porta. Gli unici che sono veramente disciplinati in questo è la comunità asiatica, in cui il 100% hanno la mascherina e fanno estremamente attenzione. Per il resto dei francesi, secondo me, se si cammina per strada, nonostante sia obbligatorio oggi in alcune città come Parigi portare sempre la mascherina, io penso che un 10-20% la porti e molti la portano male, lasciando scoperto il naso. I tavolini a Parigi sono già dalla riapertura a maggio, sono uno a fianco all'altro come sono sempre stati, in cui quindi ci sono grossi affollamenti nei bar e nei bistrò, cosa che ovviamente ha portato a un aumento della diffusione del virus. Diciamo che questa è un po' una caratteristica francese. Tendenzialmente io ho l'impressione, passatemi l'analisi molto tranchant, che tendenzialmente per cultura i francesi se gli si dice di fare una cosa fanno il contrario e non accettano queste restrizioni, le vedono come una limitazione della loro libertà, libertà di andare nei ristoranti, libertà di girare senza mascherina, libertà di girare e per cui la rifiutano. E diciamo che da questo rifiuto viene fuori anche dei lati positivi, diciamo, che sono, come abbiamo visto lo scorso inverno, scioperi. Nonostante questo stato eccezionale, in Francia si continua a scioperare. C'è una pagina Facebook che aggiorna quotidianamente su quello che avviene qui, le lotte di classe in Francia, in cui si può vedere come continuamente ci siano scioperi. Il 17 c'è stato uno sciopero nazionale in cui tutti hanno partecipato facendo molta attenzione alle prescrizioni sanitarie, ma a cui tutti hanno partecipato e si leggono di continui scioperi nelle scuole per le condizioni sanitarie, la mancanza di mezzi e le classi pollaio, nelle imprese, ancora una volta per le cause sanitarie, per i possibili licenziamenti e chiusure e in generale per le condizioni di lavoro. C'è la pandemia, ma questa non è una scusa in Francia per non scioperare. L'invito ovviamente a tutti è a non seguire l'esempio francese per quanto riguarda la vita quotidiana, mentre consiglio a tutti di seguirlo per quanto riguarda la vita sociale e politica. Questo potrebbe contribuire, se la viviamo con le dovute cautele, a migliorare la situazione di tutti.